lo scopo chiaramente è quello di sensibilizzare la città sui temi della resilienza dell'ambiente e nello stesso modo poter amplificare la nostra campagna a cui abbiamo aderito al CAI e quindi portare un po' di voti magari vincere, visto che da primi, secondi poi siamo diventati terzi, vogliamo recuperare un po'. Per fare questo ci siamo affidati anche a un po' di personaggi del circuito bolognese, tra cui Michele Poppei e Giovanni Cacioppo, che cureranno la sfilata, la passerella sul palco degli altri artisti, tra cui vedremo poi Fabio Testoni degli Schiantos, ci sarà Franz Campi con una sua performance teatrale come sempre e abbiamo anche Guido Foddis che ci porterà le sue storie, sai che lui è un cantastorie ferrarese e ha sempre trattato i temi della mobilità leggera, mobilità dolce, ha seguito il Giro d'Italia con la bicicletta cantandolo, raccontandolo. Una cosa un po' particolare da presentare qua a Bologna. La Montagnola è un punto di riferimento perché la ricordiamo come ex Montagne del Rusco della città, mentre adesso è trasformata in un parco. Chiaramente ha bisogno un attimo, come degli ultimi giorni, di custodia e presidio, come mai tutti gli spazi nelle città hanno bisogno di essere presidiati. È una cosa molto informale, un incontro con i cittadini, trovarci tutti quanti a sensibilizzare questo tema. E parteciperanno l'Ambiente di Bologna, ci sarà sicuramente il comitato promotore di generazione della speculazione, Planimetria Culturali che ha curato l'evento insieme a Arci Bologna e Binario 69 che ci cureranno tutta la parte tecnica. Tra l'altro ringrazio tutti quanti perché tutti si sono messi a disposizione gratuitamente. Questo evento non è un evento ma è un ritrovo cittadino e così lo vogliamo condividere. Tornando al tema del voto per la campagna FAI, in che cosa consiste questa campagna, come è possibile votare e perché sarebbe così importante per i Prati di Caprara? La campagna del FAI intanto è molto importante perché è una visibilità nazionale e quindi ha portato i nostri temi, la storia dei Prati di Caprara a livello nazionale in tutta Italia. Si possono vincere anche due fondi arrivando primi e chiaramente questi fondi sarebbe cominciato a riversarli su quello che si sta facendo proprio per i Prati di Caprara e in più pensiamo che sia un aggancio a cui attaccarci per portare avanti questo confronto tra chi gestisce la città e chi invece subisce la gestione della città, quindi insomma tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini c'è questo conflitto che nasce ogni qualvolta si parla di ricostruire, di generare qualcosa, non ci preoccupiamo mai di gestirlo questo conflitto. In realtà i comitati come il nostro, quello di rigenerazione della speculazione, quando l'abbiamo formato l'idea era quello di creare un comitato di riflessione e non un comitato di opposizione, in modo che proprio si potesse discutere con la città tutta di quello che dovrà diventare la nostra città nei prossimi anni. Ricordiamo che la pubblica amministrazione è da noi pagata e da noi mandata a gestire la città e in questo ricordiamo alla pubblica amministrazione che la nostra parola dovrebbe essere la più grossa e quindi questa cosa è quello che noi faremo lì da quel palchetto quella sera. Un'ultima domanda proprio su questo tema, sul fronte della progettualità urbanistica a Bologna, qual è diciamo la china che si sta seguendo e qual è invece la posizione vostra come cittadini e come comitati? Nell'idea di città, insomma, io adesso ti parlo un po' da Werther e quindi da anche Presidente dei Primi dei Culturali, non c'è un'idea in questa città, tutto sta seguendo gli eventi come si succedono. Da una parte è anche buono perché non avere un'idea di città ti permette di essere creativo nel tempo, quindi modificare le tue azioni man mano che vai avanti, aggiustare il tiro, quando invece hai pianificato completamente tutto quello che devi fare, ecco che ti crei un percorso da cui non uscirai. Se quel percorso poi dura come la trilogia navile o come la manifattura tabacchi o come altri progetti che Bologna paventa da ormai 15 anni, ecco che ci troviamo con delle città interrotte, delle città vicine al fallimento e non riusciamo a raddrizzarle. L'idea invece di città che Planimetria e anche il comitato credo possa rappresentare in questo momento pensa è proprio la città che vogliamo, la città partecipata, insomma noi come cittadini vogliamo essere noi a decidere chi ha fatto rigenerazione e chi invece non l'ha fatta, siamo noi che dobbiamo vedere se i risultati delle operazioni edilizie e dell'espansione urbanistica della città arrivano a portare benefici alla città tutta, in quel modo facciamo rigenerazione, altrimenti rimangono operazioni di riqualificazione, ricostruzione o speculazione edilizia. Quindi noi crediamo molto nella partecipazione, nella condivisione dei progetti e nell'accettare, mantenere progetti aperti per accettare nuove funzioni e nuovi servizi che vengono dall'opportunità delle città.